Questa barba benedetta la facciamo sì o no? Questa barba la facciamo sì o no? Bagatella, cospeton, che tremarella, bagatella, bagatella, tremarella, tremarella, queste febbre scarlattina, scarlattina! Via, prendete medicina, via, prendete medicina, non vi state a rovinare. Presto, presto, andate a letto. Dice bene, andate a letto. Presto andate a riposare. Presto andate a riposare. Una borsa. Andate a letto. Ma che tutti siano d'accordo. Presto a letto, presto a letto, presto a letto, presto a letto, presto a letto, presto a letto. Oh, buonasera, mio signore. Buonasera, mio signore, presto andate via di qua. Buonasera, mendicore. Buonasera, buonasera, buonasera, mendicore. Poi domani vi parlerò. Maledetto seccatore, seccatore, maledetto seccatore, seccatore. Un non so che nell'occhio. Guardate, non toccate. Soffiate, soffiate per pietà. Thank you. ringraziato me. Ma come? E Dio, non mi accorsi di nulla? Oh, Don Basilio, sa certo qualche cosa. Ehi, chi è di là? Chi è di là? Senti, Ambrogio, corri da Don Basilio qui rimpetto. Digli che qua l'aspetto, che venga in mantinente, che ho gran cose da dirgli. E che io non vado. Perché? Perché? Perché ho di gran ragioni. Va subito, di guardia, tu piantati alla porta, e poi... No, no, no, no, no, no, no. Non me ne fido, io stesso ci starò.